Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, sono cominciati bene gli 8 giorni decisivi per la stagione dell'Inter. Meno bene magari il primo round della nuova sessione napoletana di Calciopoli, ma questo è un altro discorso. E le interpretazioni in materia dopo ampia lettura dei quotidiani di stamane sono davvero molto ma molto variegate. Vi ricordo che dopo la vittoria di ieri sera a Firenze, l'Inter giocherà due partite decisive a San Siro, venerdì contro la Juventus e martedì contro il Barcellona. Come te le immagini, caro Roberto Boninsegna? Buongiorno. Buongiorno, caro. Come me lo immagino. Sono due partite estremamente difficili, perché un Inter-Juventus è classicissima ed è sempre stata una gara che va al di là di qualsiasi logica, perché insomma è una gara da triplo e l'Inter rischia sì in campionato che poi anche logicamente in Coppa dei Campioni. Senti un po', io farei un passo indietro per inquadrare per l'appunto questa settimana, no? Allora, meno male intanto che era tutta una torta tra Inter e Fiorentina, per cui l'Inter vinceva tranquillamente sabato che le serviva per il campionato e la Fiorentina vinceva ieri sera che le serviva per la Coppa. Così ci aveva raccontato, no? I ben informati. Sì, sì, sì, i ben informati fanno solo della confusione. Certo. E poi vengono sempre smentiti, perché tutta gente che sa tutto e non sa niente, e anche questa volta sono stati clamorosamente smentiti. Ovviamente Vigliacus è uno, ha chiesto scusa, ma questo è tutto un altro film. No, non è questo non è questo un paese in cui si chieda scusa, no? A nessuno. Senti, quale delle due partite è più difficile? Io non vorrei essere particolarmente banale, però cioè, è chiaro che questa Juventus di quest'anno e il Barcellona di quest'epoca non sono paragonabili, però in molti hanno cominciato a far notare che insomma, questa giornata sarà lo snodo principale, perché la Lazio e i laziali e la Juventus e gli juventini darebbero qualsiasi cosa, credo, per far perdere il campionato rispettivamente alla Roma e all'Inter, no? Sì, il bello del calcio è questo, ecco. Il derby di Roma, la Lazio, se batte la Roma salva il campionato, la Juventus se fa risultato o batte l'Inter a Milano, insomma molte polemiche si spengono e poi le speranze di centrare ancora la Coppa dei Campioni aumentano anche per la Juventus. Perciò sono due gare difficili da interpretare. Senti, tu che ci sei stato, no? E quando ci sei stato tu, alla fine degli anni 70, la Juve era tutt'altro che a pezzi come adesso, anzi hai vinto due campionati in due anni di fila, verso fine carriera, tu che avevi passato una carriera all'Inter, al Cagliari e che eri interista dentro e lo sei rimasto anche oggi, tu sai cosa vuol dire per la Juventus affrontare l'Inter e a maggior ragione questo discorso vale oggi, no? Con tutti i veleni di questi ultimi anni. Che errore non deve commettere l'Inter affrontando questa partita e sapendo che quattro giorni dopo al Barcellona? È una partita a rischio, anche per quello che sta succedendo oggi sui giornali, c'è tanta confusione. Comunque credo che un po' di turnover lo debba fare, perché insomma l'Inter ha un organico eccezionale, ha tantissimi giocatori validi, però insomma la base della squadra comunque deve sempre rimanere. Quindi devono girare alcuni giocatori che non sono, non dico scarsi, perché sarebbe una roba incredibile di dare degli scarsi ai giocatori dell'Inter, però insomma ci sono dei giocatori inamovibili, specialmente a centrocampo, e logicamente questi giocatori devono sempre giocare o perlomeno entrare in campo, poi li puoi sostituire gara in corso. A proposito di turnover, io non discuto le coppe, né la Coppa Italia né tantomeno la Coppa dei Campioni, dove l'Inter è cresciuta molto di rendimento. Siamo però sicuri che in campionato, negli ultimi tre mesi in cui l'Inter si è fatta mangiare davvero un capitale abbastanza incredibile, siamo sicuri che la gestione del turnover sia stata la più azzeccata, a parer tuo? Ah beh, no, stando ai risultati no. L'Inter si è mangiata 14 punti. Che sono tanti, eh. Sono tanti, ma probabilmente succedono queste cose. Nel senso che hai già in tasca il campionato, c'è un certo rilassamento, e poi riprendere sulla stessa linea, sulla stessa concentrazione diventa difficile. Probabilmente la testa era rimasta in Coppa dei Campioni. E poi quando te ne accorgi che diciamo, non c'è più fieno in cascina, è difficile rimetterlo dentro. Certo, c'è ancora adesso, prima l'Inter dipendeva esclusivamente da lei, adesso dipende dagli altri, questo è un guaio. Certo, questo ha cambiato completamente le prospettive. In questa ottica, dato che l'Inter è un po' sull'altalena, no? Ci ha abituato in questi anni a un rendimento abbastanza costante, poi c'erano i periodi più brillanti o meno, ma insomma, invece adesso mi sembra che abbia da una partita all'altra forbici di rendimento molto più ampie, e da questo punto di vista mi è sembrato rassicurante ieri sera. Sì, beh, ieri sera ha fatto una gara tosta, ecco, nel senso che si è vista la grande squadra proprio andata in campo convinta di portare a casa questo risultato. Forse la Fiorentina non era la stessa Fiorentina del 2-2 del campionato, ecco. E questo ha fatto sì che l'Inter, insomma, in un certo senso la partita l'abbia vinta meritatamente. Certo. Roberto, hai un minuto circa in cui ascoltiamo il traffico per prepararti alle domande invece leggermente più imbarazzanti, perché io dico imbarazzanti perché credo che chiunque oggi non sia schierato a prescindere faccia un po' di fatica a orientarsi tra questa nuova ondata di fango o di scegli tu quale altra materia organica chiamare in causa. Organica, l'altro giorno ho sbagliato, ho detto inorganica, invece organica a pieno titolo. Beh, insomma, i nostri ascoltatori hanno buona memoria e lo desumo, lo ricavo dal numero di messaggi che stanno arrivando dedicati al grande Bonimba e al ricordo delle sue imprese su un fronte e sull'altro, perché sono anche tanti gli juventini che ti ricordano e con estremo piacere. Roberto, che idea ti sei fatto di Napoli e di quello che sta uscendo? Ah, c'è una gran confusione, non è difficile. Ma cosa che ti dica, io ho letto i quotidiani sportivi di oggi, una cosa importante è che oggi non è più interista, questo mi fa piacere. Tanto per cominciare. No, perché io a Juventus ho fatto 3 anni splendidi, no? 3 anni di vittoria, ho vinto Europa UEFA, due campionati. In Coppa dei Campioni abbiamo ciccato un po' comunque. Col Bruges, se non ricordo male. Col Bruges, abbiamo fatto il primo anno, abbiamo vinto Europa UEFA, secondo, sì. Semifinale. Terza e il terzo anno clamorosamente eliminato al primo turno. Comunque succede anche alle grandi squadre. Certo. Niente, io così è difficile. Beh, Moggi, sai, è uno che credo che la linea di Moggi sia quella di coinvolgere un po' tutti, che era un mal costume questo telefonare ai designatori. Cioè, lui mi sembra che abbia esagerato, che parla di 450 sì. telefonate solo con le SIM italiane, senza le SIM straniere, così, insomma. Sì, poi sì, è indubbio che il fatto di dire che lo facevano, se non tutti, lo facevano in tanti, questo la difesa è riuscita a dimostrarlo. Certo. Ma oggi c'ha i soldi, ha preso degli avvocati bravi. Sì. E quando hai gli avvocati bravi un po' di mescolare le carte a suo favore succede sempre. Cioè, tu dici che in questi anni qualcosa ha messo da parte, è riuscito a risparmiare faticosamente per potersi permettere, questo vuoi dire? Sì, anche lo stesso Mancini oggi dice che anche lui aveva alcuni dubbi su certi arbitri che secondo lui li manovrava Moggi. Questo sono dichiarazioni che uno legge e dice, se lo dice uno che era in campo allora io non c'ero più, tu non c'ero allora più. Ci puoi credere, ecco. Certo. Uno che si permette di chiudere un arbitro negli spogliatoi, insomma, lì sono atteggiamenti credo che vanno fuori al di là di ogni logica, ecco. Senti, una curiosità mia, ma perché che non riguarda più Napoli? Questa è una cosa veniale, però io trovo a Giocolunga fastidiosa. Cioè, l'Inter ha preso l'abitudine o il vizio, se vuoi, di rientrare in campo nella ripresa sempre più con suo comodo. Cosa vuol dire? A parte il fatto che questo è un rimando moggiano, perché questo lo faceva il Napoli di Moggi del 90, secondo me, quando era punto a punto col Milan, le partite del Napoli cominciavano sempre 3 o 4 minuti dopo, o soprattutto i secondi tempi, in maniera da finire 3 o 4 minuti dopo, no? Si vede che già allora, voglio dire, sapeva cosa farsene di questo. Ora, nel caso di ieri no, perché non c'era, non essendoci contemporaneità di partite, non è questo il problema. Ma perché? E soprattutto, ma è regolare questo? Assolutamente no, beh, al di là della scaramanzia, no? Che secondo me certi allenatori sono scaramantici, sì. Però non mi sembra giusto, non mi sembra giusto, tant'è vero che la federazione nelle ultime gare fanno iniziare le gare proprio tutti assieme, sì. E dovrebbero farle finire tutte assieme, perché altrimenti qualche risultato potrebbe cambiare, oggi poi con i cellulari si sa tutto in diretta. Ed è un mal costume, secondo me, che dovrebbero... Però sai, uno dice sono gente superstiziosa, qui la vedo qui, però. Dovrebbe intervenire la federazione e far ricominciare anche le altre gare sempre all'orario giusto. Anche secondo me. Senti, tu lo sai che ogni volta che ho il piacere di sentirti, mi piace aggiornare l'erede di non che ci debba essere un erede per forza, l'erede è tuo figlio, ci mancherebbe altro, ma insomma un giocatore che somigli in modo particolare a Boninsegna. Allora, io in passato ho tentato, mi sono beccato anche dei discreti accidenti da te una volta che mi sono sbagliato a dire Vieri e avevi perfettamente ragione, e ti ringrazio ancora adesso di non avermi querelato. Adesso ogni tanto noto delle somiglianze interessanti con Viglia, quello del Valencia. Becco un'altra querela o... No. Un attimo, sono sempre confronti con giocatori bravi. No, Viglia è un giocatore interessantissimo, a me piace molto. Ma il giocatore che mi piaceva più nei tempi era Santillana, no? Sì. Però adesso, tornando ai tempi nostri, credo che Villa sia un giocatore è un po' più rapido di me, mi sembra, così visto così, però sì. come caratteristiche ci sono molte affinità, perché è uno che dà riferimento alla squadra, è una punta proprio che fa respirare la squadra nei momenti di bisogno, dà la palla a lui, la tiene, insomma, ci fa far fallo, ecco, però mi sembra un po' più rapido. Un po' più rapido. Ultima domanda. Ho letto, avvicinandosi il Barcellona, anche se adesso poi si è rimasti distratti da altre cose più o meno collaterali, avvicinandosi il Barcellona ho letto molti risultati ottimali per l'andata, ottimali ma realistici, se no uno dice 3-0 o 4-0, allora è facile. E ho letto che Mourinho, per esempio, ha parlato di ripetere il risultato dell'altra volta, cioè che lo 0-0 sarebbe un buon risultato. Secondo te? Ma sì, è un buon risultato, perché però bisogna riuscire a fare gol in trasferta, e non è facile. Il risultato ideale sarebbe logicamente vincere in casa, anche solo 1-0, ma quello sarebbe determinante sotto certi aspetti. Lo 0-0 è pericoloso, logicamente, anche per la squadra che gioca in casa. Ma Mourinho a volte secondo me non dice la verità, ecco, nasconde a volte, dice a volte, no, è molto furbo, sveglio il ragazzo, e bisogna interpretarlo, ecco. Lui con lo 0-0 mette le mani avanti, ecco, però non è un brutto risultato, onestamente. Certamente che giocando in casa si deve giocare, credo che preferisca vincere, logicamente. Immagino anch'io. Buona settimana, Roberto. Grazie Gigi, anche a te. Grazie ancora Roberto Boninsegna. Chiudiamo questo collegamento con Mantova. Beh, quanti messaggi, adesso devo cercare di ritrovare l'orientamento tra tutti. Ci sono parecchi ascoltatori già collegati, ci sono delle voci da sentire. Intanto un commento sintetico, direi, di Prandelli dopo l'eliminazione molto amara di ieri sera. È accaduto che abbiamo preso un gol e da lì abbiamo perso fiducia. È un peccato, perché eravamo in partita, perché potevamo fino alla fine mantenere anche certi ritmi. Abbiamo rischiato un fuorigioco che non dovevamo rischiare e siamo stati puniti. Un errore esiziale da parte della Fiorentina, una scelta di tempo perfetta dell'Inter nell'approfittarne, ed è chiaro che la partita in quel genere di partite, quel gol è un po' quello che una volta era il gol del gol, no? Che è durato poco, per fortuna, perché non era sto granché come trovata, però era il gol che chiudeva la partita. Infatti la mezz'ora successiva è stata francamente inutile. Sentiamo Mario, ha chiamato da Milano. Buongiorno Garantini, buongiorno. Buongiorno. Sorvolerei sul fatto di Napoli, perché ho le orecchie piene, però volevo un parere da lei. È sempre successo che chi vince, chi è in testa, diventa antipatico, ma io vedo in questi giorni, soprattutto dopo che domenica la Roma ha superato l'Inter, vedo da parte dei media, delle televisioni, vedo questo prurito di aspettare che l'Inter cadesse in tutte le occasioni, anche ieri sera nel commento, io non so se lei ha visto Rai, oggi ho visto addirittura su Sky un servizio dove i bambini non sono andati a scuola per andare a Trigoria a vedere l'allenamento, un quarto d'ora collegati con Trigoria, il Milan non l'hanno neanche fatto vedere oggi, cioè lei cosa ne dice? Ripeto, è sempre successo, chi in testa, anche i tempi di Milan e Juve, c'era l'antipatia generale da parte sia dei tifosi ovviamente sia dei media. Adesso veramente vedo questa voglia di vedere l'Inter capitombolare, così la prima della classe va fuori dalle balle, insomma, dopo 3-4 anni che vince, così volevo sentire un suo parere molto, molto distaccato. Grazie. Sì, lei dice che è sempre esistito, è sempre esistito in maniera più o meno... più o meno accentuata, mi pare che l'Inter non abbia fatto nulla per convincere che questa antipatia non c'era né l'Inter né tantomeno il suo allenatore con gli atteggiamenti che ha preso in particolare in questa stagione. Certamente tutto quello che sta emergendo da Napoli non aiuta, no, a migliorare l'immagine dell'Inter né presente né passata. Ho detto immagine, non sto parlando d'altro al momento, ma e quindi mettendo tutte queste cose insieme direi che ci sta, mi pare sia abbastanza naturale. Ieri era arrivata fuori tempo massimo una mail deliziosa, poi cercherò di ritrovare il nome dell'autore, a proposito della gomitata di Camoranesi non punita dal giudice sportivo, ma non per colpa del giudice sportivo, ripeto, quanto per colpa dell'arbitro Valeri che l'ha ritenuta regolare, una normale azione di gioco non punibile. E la mail di questo ascoltatore diceva, visto che Camoranesi non ha tirato una gomitata secondo l'arbitro, è stato bravo Conti che l'ha presa a non bestemmiare, perché se per caso gliene scappava una finiva che Camoranesi era depenalizzato tranquillamente e che invece Conti magari si beccava le due o le tre giornate. La mail era firmata Gianluca Facchetti, ecco perché mi aveva anche colpito Gianluca Facchetti, che però non, è soltanto omonimo e non c'entra con la famiglia, che ieri non ha preso benissimo alcune cose emerse al processo di Napoli, ho letto sui giornali. Facciamo in tempo, credo, a sentire ancora Andrea, che ha chiamato la Lecce. Buongiorno. Buongiorno signor Canzini, ti ascolto da anni. Grazie. Ascolti, una cosa, e non vorrei essere frainteso, io sono tifoso del Lecce, quindi lungi da me, Inter, Juve, a me non mi importa nulla, però vorrei sapere una cosa: tra uno che commette un omicidio e uno che commette un tentato omicidio, la differenza c'è? Cioè, c'è una grandissima differenza, perché quello che ha fatto l'omicidio si becca un sacco di anni, quello che ha tentato l'omicidio non ha fatto quello che ha fatto l'omicida, però gli anni si ribecca lo stesso. Ecco, a me mi sembra che quello che sta succedendo a Napoli sia più o meno la stessa cosa. Più o meno, magari lasciando stare gli omicidi, perché un conto è un... Insomma, capisco il concetto del dosaggio e della differenza... del paragone, perché la tentazione dell'immaginifica c'è in questa storia. Poi insomma, credo che l'omicidio sia una roba da lasciare abbastanza perdere. Questa è l'omicidio è un dramma, questa è una vicenda ignobile, e tra l'ignobile e il drammatico c'è una notevole differenza. Forse la potrebbe querelare Villa, ha scritto un ascoltatore, ma non credo proprio, perché se Villa vedesse qualche filmato, qualche spezzone di chi è stato Roberto Boninsegna, credo proprio che ne sarebbe fiero invece e orgoglioso, ma immagino che questa sia una battuta. Ieri sera mi era arrivata una mail di Gabriele, provincia di Padova, che aveva scritto egregio, eccetera, eccetera, sto guardando la semifinale di Coppa Italia. Quando hanno inquadrato Stefano Borgonovo mi sono commosso e ho pensato che tutto il marcio di cui ci si sta occupando in questi giorni ha sempre meno senso di fronte alla dignità, alla voglia di vivere, all'importanza della vita, alla voglia di vivere e lottare di Stefano Borgonovo, e in più la dignità di quest'uomo che non ha vergogna di farsi vedere in queste condizioni. Spero di essere riuscito a far capire il mio stato d'animo. Non sono molto bravo a descrivere le mie emozioni. Beh, insomma, io invece l'avevo trovato bravissimo già ieri sera. Stamane è abissato Gabriele, e dice: a seguito della media ieri sera, oggi sono andato a fare una piccola donazione alla Fondazione Borgonovo, e insieme mi sono ripromesso di non interessarmi più delle polemiche inerenti al calcio. Allora, beh, bravo per la donazione, non ci credo nemmeno sotto tortura che sarà così anche la seconda parte della mail, ma insomma quello che conta è agire. Poi qualche errore sull'investimento del proprio tempo libero si può sempre fare. Giovanni ha chiamato da Napoli, buongiorno. Buongiorno, complimenti. Dica. Due cose molto brevi. Una è che il fatto del derby di Napoli, Juventus-Inter, abbia ancora appeal, è tutto da vedere, perché chi ha visto giocare la Juve, mi chiede, io sono un tifoso, è pietosissimo, quindi non penso proprio che ci sia partita. Lei è tifoso della Juve? Sì, però sono quello obiettivo, mi scusi. Però no, è obiettivo, ma la conosce male allora. Ma la Juve è pietosa, forse non la vede da tempo, è proprio inguardabile. Sì, poi, apposta, ma non ha capito che cosa vuol dire essere la Juve e giocare questa partita contro l'Inter dopodomani. Ma come stanno le cose adesso, non c'è poco. Mi crede, poi magari ne riparleremo quando è lunedì, magari sicuramente. Parliamo venerdì sera o sabato. Vabbè. Comunque, poi diciamo, l'ultima cosa volevo dire, sicuramente Facchetti non è pericoloso, diciamo, oggi, per carità, però ascoltare Facchetti che parla al telefono con Bergamo e dice: ho parlato con la squadra, gli ho detto che Bettini viene predisposto e quant'altro, questo non è che dico diciamo rubare oppure diciamo comprarsi diciamo designatore o quant'altro, ma non credo proprio sia sportività, soltanto questo. E poi l'ultima cosa voglio dire, che diciamoci vittime del signor Moggi sono io, Juventino, e tutti i miei colleghi, a mio avviso. Volevo sapere il suo pensiero, perché diciamo così mi fido di lei, perché sono sempre d'accordo con lei, e dico sempre. Grazie, arrivederci. Arrivederci a lei, Giovanni. Ma non ho capito benissimo l'ultima parte. Io, se ho capito bene, io sono il primo con lei a trasecolare per questa fedeltà, no? che gli oltranzisti hanno nei confronti di chi ha fatto i maggiori danni nella storia della Juventus. Quindi questo davvero non rimane il mistero principale. Se era questo che stava dicendo, credo di sì, credo che dovrebbe essere così, però evidentemente non per tutti è così, se ancora oggi no, il è così venerato, no? È così venerabile, ma insomma è così venerabile o venerato, scelga lei. Ciro Novara, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Dottor Garanzini. Mm-hmm. Niente, io volevo intervenire sul discorso Calciopoli, però prima mi aveva dato il là su una veloce battuta, ma i giocatori stranieri quando bestemmiano nella loro lingua, ma cosa, c'è un traduttore, qualcosa che va a captare il labiale? Sì, bisogna chiederlo a Petrucci. A Petrucci e ai suoi boys. Quindi, ma non so, Nick Steiner quando bestemmia, non so, comunque no, è uno scempio. Può anche darsi che gli stranieri non bestemmino, che questa sia una devianza tutta italiana. Sinceramente non sono pratico in materia. Comunque, tornando al discorso Calciopoli, io volevo dire che io sono un ex arbitro, arbitrato fino a settembre, ma non ad alti livelli, mi sono fermato a promozione / eccellenza. Io so come venivano effettuate prima le designazioni, cioè gli arbitri venivano divisi in fasce e quindi c'erano cioè a seconda della difficoltà della gara, un arbitro era inserito in una fascia, poteva arbitrare quella gara piuttosto che. E stamattina su Corriere dello Sport, il sito, ho visto e ho letto, cioè ho ascoltato l'intercettazione, la prima, quella di dove c'erano Bergamo e Facchetti, e sinceramente mi sembrano le stesse cose che si dicono a una riunione degli arbitri per una gara di prima categoria, dove si dice: ma sì, ci sono stati quei problemi, stai attento, non c'è sostanza. Questo è quello che volevo dire. Poi ne ho lette delle altre. C'è sgradevolezza, c'è spiacevolezza, ma non c'è sostanza. Sì, questa è anche sostanza, la mia opinione. Cioè, io posso dire, ok, eticamente può essere sbagliato, ma se andiamo a vedere l'etica ce ne sarebbero di cose finora. Certo. Poi magari saremo sentiti la settimana prossima. Lei ha detto in un incontro, in una riunione, queste non erano incontri e riunioni, queste erano telefonate fatte appositamente. Poi sono abbastanza certo che era Bergamo che chiamava, ma non parlo solo di Facchetti piuttosto che di Morelli. Io sono convinto che era il signor Bergamo che si doveva parare, no? Per come si comportava nei confronti di un altro e di un'altra società, però che se non era lui a chiamare, era lui a indurre la chiamata. Io insomma, perché poi rispetto a questi comportamenti poi ci stiamo dimenticando altre cose, no? Ci stiamo dimenticando quali erano poi le conseguenze pratiche di tutto quello che avveniva, ma non lo so sinceramente, perché è talmente tutto così avvilente. Ciro, ha finito? Sì. Niente. Grazie. Grazie. Sentiamo chi sentiamo? Sentiamo Lippi. Lippi è attualmente, dove che ho letto? È a Coverciano, mi pare, per una per una lezione, per una conferenza ai tecnici. Eccolo qua, docente per i tecnici UEFA, 140 allenatori di 53 nazioni partecipanti al 18° corso organizzato dall'UEFA con la FIGC. A margine del convegno, Lippi ha parlato sia di Amauri che della vigilia di Inter Barcellona. Sentiamo. Lui la scelta l'ha fatta subito, e questo lo sanno anche i giocatori. Non ha giocato lui fra Italia e Brasile. Questo significa che da ieri lui è italiano e sarà visionato né più né meno come tutti gli altri calciatori italiani. Sono stato chiaro? L'Inter ha raggiunto un livello di autostima, di consapevolezza, di forza, di convinzione, soprattutto in Champions League, che negli ultimi anni non aveva mai avuto. E perciò penso che 50-50. E questo era Lippi. Marco, chiamato da Prato, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Allora, io due cose volevo chiederle. Uno, la sua opinione su tutta una serie di giocatori di tante squadre che ogni volta che l'arbitro dà un fallo contro cominciano a protestare in maniera plateale, anche se il fallo effettivamente è stato fatto. Non so, mi sembra abbastanza spiacevole come cosa. Lo vedo solo nel calcio italiano questo, ecco, non si vede molto spesso all'estero. No, secondo me si vede anche all'estero, certamente non nella misura in cui lo si vede in Italia. Questo, sì, esatto, perché ora a me viene in mente ieri sera Chivu, ma perché è l'ultimo esempio, il più fresco, ecco, che ha fatto fallo e ha protestato in maniera veemente contro il guardaline. Ma è abbastanza spiacevole, ecco, come c'è dubbio, come cosa. E poi volevo chiederle, ma secondo lei, io so come la pensa eccetera eccetera, ma se un Facchetti dice a un Bergamo in sede c'è un regalo per te, oppure se gli dice io ho problemi con quell'arbitro, cerca praticamente di fare le griglie come cercavamo oggi. A me spiace per la famiglia di Facchetti e tutto, però volevo capire, io non ci vedo tutta questa grande differenza, poi ci saranno le prescrizioni eccetera eccetera, ma moralmente io non vedo una grossa differenza tra il Moggi e il Facchetti. Poi magari i comportamenti generali potranno essere altri, potrà essere più apprezzato uno dell'altro, però a livello pratico e morale non vedo tutta questa differenza, ecco, tra i due in questo caso. A livello, sì, non so se dire morale o meno, io credo che queste telefonate siano veramente sgradevoli e indubbiamente incidano sulla figura del personaggio Facchetti e del dirigente Facchetti. Su questo credo che non ci possono essere molti dubbi, quindi sul piano, come dice lei, morale bellissimo non è. Poi rilevo, perché le telefonate si può vedere la trascrizione oppure ascoltare i toni, no? E quindi capire attraverso i toni che vengono usati e attraverso poi come maturano le vicende e come si traducono in atti e in fatti concreti da parte arbitrale. Lì c'è una evidentemente c'era un'enorme differenza, che è quella che ha originato tutto. L'altra cosa l'ho già detta ieri, cioè la differenza è che quando i Facchetti e gli altri parlavano con Bergamo si sentiva belare, e quando parlavamo oggi con gli arbitri e con Bergamo si sentiva la voce del padrone, si sentiva abbaiare, e credo che questa sia la vera e sostanziale strutturale differenza che rimane in questa vicenda e da cui discendono tutte le considerazioni che che ciascuno ritiene di dover fare, compresa quella che se l'Inter è andato avanti per anni a dire noi con i designatori o con cosa non abbiamo mai parlato, beh, alla faccia di quelli che non parlavano, su questo non c'è dubbio. Ripassiamo la storia con il consueto aiuto di Nicola Filippone. Sembra ieri. 14 aprile 1982. Bearzot fa le prove per il mondiale spagnolo in un amichevole contro la Germania Est a Lipsia. I tedeschi orientali si impongono per 1-0, ma il CT azzurro coglie buone indicazioni da due giovanissimi esordienti. Il terzino dell'Inter Bergomi, 18 anni, subentrato nella ripresa al romanista Marangon, altro debuttante, e l'attaccante ventenne della Fiorentina Daniele Massaro. Massaro e Bergomi convinceranno Bearzot a convocarli per il Mondiale e il difensore nerazzurro riuscirà anche a ritagliarsi un ruolo da protagonista. Altro che essere da protagonista. Il finale di Mondiale di Bergamo, cioè la finale e l'appuntamento precedente, ma soprattutto quando entrò a freddo alla mezz'ora del primo tempo contro il Brasile. Nella partita chiave di quel Mondiale, l'autorevolezza con cui subentrò a sostituire Collovati. Valdimiro ha chiamato da Arezzo, buongiorno. Buongiorno dottor Gananzini. Dica. Volevo dire che ieri sera la partita di Firenze. Sì. Per quanto riguarda Snyder e il presunto, dice lui, il gesto dell'ombrello, posso testimoniare, penso insieme a qualche migliaio di persone, che alla fine del primo tempo, all'inizio del secondo, quando ritardarono per 5-7 minuti il loro ingresso in campo, quando sono rientrate non gli è mancato nulla, gli abbiamo detto tutti i colori, solo che Mourinho se le prese zitto zitto e è andato nella sua panchina senza reagire. E già all'inizio del secondo tempo, quando sono rientrati i panchinari, abbiamo fischiato giocatori, tutti, abbiamo detto buffoni, ridicoli e poi qualche altra parola che qualcuno si è lasciato scappare, il signor Snyder si è rivolto verso la tribuna e ci ha mandato più volte a facchio, facchio, facchio. E poi alla fine della partita quindi ha fatto pari, Valdimiro. Si è rivolto verso il pubblico e ha fatto il famoso gesto. Quindi non noi siamo bugiardo, il giornalista bugiardo, è lui bugiardo e non ha neanche il coraggio delle proprie azioni. Sì, se messa così va bene. Io finché vi ha cordialmente ricambiato, non ci trovo nulla di spaventoso, no? Perché se voi siete in... Stare in pubblico non è tanto, diciamo, messo bene per quanto riguarda la sicurezza. In che senso? In che senso? Quando un giocatore reagisce nei confronti del pubblico, si sa che il pubblico è eccitato, insomma, nelle partite, eccetera, i giocatori dovrebbero astenersi da reagire nei confronti del pubblico. Beh, ma se gli scappa a mezza bocca un fac, eccetera, di fronte a quanti eravate? Qualche centinaio, qualche migliaio, credo. Qualche migliaio, sì. Gli abbiamo detto tutti i colori, perché ci ha dato 10 minuti a rientrare in campo. Perfetto. E se a questo gli scappa un fac, a me non sembra reato, onestamente. Invece, platealmente... Se non c'è da vedere, probabilmente non avrebbe fatto quel gesto, perché le sarebbero saltate addosso. Quindi reagire nei confronti di un pubblico è sempre sbagliato. Sì, sì, sì. No, io non lo so, non, oltretutto sto evidentemente parlando con una persona di livello, su questo non c'è nessun dubbio, e sentire questo no, queste cose mi convince di una cosa soltanto, che essendo arrivato all'ottavo anno in cui, se Dio vuole, non metto più piede in uno stadio, cioè, questo non fa che rafforzarmi la bontà di questa scelta, ecco, tutto lì. Giovanni da Palermo, buongiorno. Salve Garanzini, volevo fare due considerazioni, una su Mourinho come personaggio, ma più che altro come tecnico, e un'altra su Inter-Barcellona, Inter-Barcellona. Allora, su Mourinho dico che a mio avviso Mourinho può, per quanto si possa amare o odiare, perché comunque sono queste le posizioni, può dare un apporto positivo alla crescita del calcio italiano, così come anche qualsiasi altro allenatore che abbia allenato in altri paesi. Io per esempio mi riferisco al fatto che lui il discorso del turnover, per esempio, no? Lui è convinto che non ci sia bisogno di un turnover come lo intendono gli allenatori italiani, e in effetti dobbiamo considerare che all'estero si giocano molte partite. Questo mi ha fatto riflettere se in effetti i giocatori hanno bisogno di rifiatare oppure è un atteggiamento che si abbia qui in Italia. Altra considerazione sulla Barcellona-Inter, io vorrei porre l'attenzione su una partita, l'unica partita che mi è parsa degna di nota relativamente al Barcellona, nel senso una squadra che abbia saputo realmente mettere in difficoltà, sembra stato, ma per me è stato il Rubi Kazan. Se andiamo a vedere la partita in cui il Barcellona ha perso in casa, la nota particolare è quella che Rubi Kazan aveva un movimento per tutto l'incontro che era quasi come dire, complementare in termini di velocità, cioè si muovevano alla stessa velocità. È un qualche cosa di singolare considerando l'avversario. E sarebbe singolare che l'Inter a fine stagione si mettesse a correre come il Rubin Kazan che corse quel giorno, e soprattutto sarebbe singolare che l'Inter si mettesse a imitare Rubin Kazan con le qualità che ha in squadra. Io non gliel'auguro sinceramente all'Inter, credo che l'Inter debba fare l'Inter al suo meglio, e il Barcellona proverà a fare evidentemente il Barcellona al suo meglio. Mi sembrava strano, scrive Paolo, che Cellino facesse due campionati interi senza licenziare un allenatore. Beh, difatti ha rischiato moltissimo stavolta, perché il colpo di scena tardava, poi è arrivato, e probabilmente dipende dal fatto, almeno così è stato spiegato, che Cellino non l'ha spiegato ufficialmente, ma insomma le sensazioni è che Cellino fosse abbastanza convinto che Allegri ha già firmato per qualcun altro, comunque è già d'accordo con qualcun altro, e quindi trascurava il Cagliari, e quindi Allegri trascurava il Cagliari, questa è la tesi. E la tesi d'accusa, ridicola come sempre in questi casi evidentemente, ma insomma anche cioè, il ridicolo nel calcio, come vediamo anche da altre vicende, è una componente, mi pare, determinante. Paolo Parma, buongiorno. Buongiorno Garanzini, la mia domanda ha già risposto lei, se è possibile ne faccio un'altra. Sì. Cosa ne pensa, se secondo lei Leonardo rimarrà ancora sulla partita del Milan, sulla panchina del Milan, e se la coppiata Tassotti Galli può essere valida? Per me no. Non ho idea, Paolo. Non, io credo che per fare qualcosa di valido il Milan debba pensare a ringiovanire un po' la casa di riposo, no? Credo che questa sia la cosa seria da fare. Poi chi questa casa di riposo sia chiamato a gestirla, questo è un altro discorso. Leonardo ha la sensazione di no, per sua libera scelta. Ma quello mi pare un po' la cosa da fare. Siamo dunque, la Digos di Cagliari ha denunciato in stato di libertà 61 tifosi milanisti per un tentativo di aggressione al gruppo di tifosi del Cagliari per la partita dello scorso 3 aprile. Notizia appena battuta, grazie a Pietro Lacorte in regia, grazie a Flavio Suardi con Franco Piantanini in redazione. Buon pomeriggio.